Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Regionali, PDL in piazza a Roma, in forse la presenza di Berlusconi, Bossi sollecita una soluzione politica, Napolitano preoccupato. Rifiuti in Campania, l'Unione Europea condanna l'Italia, rischi per le persone. Body scanner, parte oggi la prima sperimentazione a Fiumicino. Iraq, 3 attentati e 12 vittime nel giorno di avvio del voto per la nomina del primo ministro. Buona giornata da Anna-Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Dunque, sempre il pasticciaccio delle liste per le regionali in primo piano. Oggi a Roma l'ufficio di presidenza del PDL, alle 17 manifestazioni a Piazza Farnese, e poi c'è la situazione della Lombardia. In diretta Alessio Maurizi. Sì, per trovare una soluzione al nodo delle liste del PDL escluse dalle regionali scende in campo Silvio Berlusconi. Nel primo pomeriggio si riunisce l'ufficio di presidenza del partito a Palazzo Grazioli con il premier, che in un primo momento aveva annunciato la presenza alla manifestazione di Renata Polverini alle 17 a Piazza Farnese. Allo studio potrebbe esserci anche un decreto del governo, l'urgenza c'è, ha detto il ministro Bossi, che però ha invitato a trovare una soluzione politica. Il centrodestra prova dunque a cambiare passo, non solo coi ricorsi al TAR annunciati da Polverini e Formigoni. A Roma manifestazione oggi, come dicevamo, del candidato presidente, che attende tra l'altro proprio entro oggi il responso della Corte d'Appello sull'esclusione della sua lista. Iniziative anche a Milano, dove stamattina i rappresentanti della lista per la Lombardia di Formigoni hanno verificato la regolarità delle altre liste presso l'ufficio elettorale della Corte d'Appello. Il presidente Formigoni ha annunciato due ricorsi al TAR, uno sulla sua lista, uno invece sulla sua candidatura. Ma sentiamo il vice coordinatore lombardo del PDL, Massimo Corsaro. Stiamo verificando tutti gli atti delle firme che abbiamo raccolto come lista per la Lombardia, quindi in appoggio alla candidatura del presidente Formigoni. Stiamo verificando quali sono le motivazioni per cui alcune delle firme non sarebbero state considerate valide nella seconda verifica da parte dell'ufficio. Presenteremo al TAR il ricorso con, evidentemente, oltre alle motivazioni di sostanza, la richiesta di immediata sospensiva del decreto che dispone la non ammissione della nostra lista. A mandare fax di protesta al Quirinale, il capo dello Stato, che fa sapere di seguire preoccupato gli sviluppi di questa vicenda, però ha già detto che l'ammissione delle liste è una competenza della magistratura. E per ora è tutto, a te Anna-Rita. Grazie Alessio. Italia condannata dalla Corte di Giustizia Europea per l'emergenza rifiuti in Campania del 2008. Il mancato rispetto delle direttive europee mise a rischio la salute umana e l'ambiente, dicono i giudici. Ora verranno effettuati nuovi controlli e se la situazione non sarà migliorata arriveranno le sanzioni, e ci sono poche speranze di evitarle, dice a Laura Bettini Marina Perrotta, giornalista ed esperta di Ecoblog, sito di informazione ambientale. Proprio la filiera della raccolta, smaltimento e riciclo del rifiuto, ecco, sostanzialmente è questo quello che è mancato e che manca tuttora, perché poi alla fine i rifiuti come sono stati sistemati? Sono stati sistemati in altre discariche, cioè sono stati presi tal quale, proprio così com'erano, senza differenziarli, e sono stati buttati in una nuova discarica che è quella di Ferrandelle, oppure nella discarica di Chiaiano, oppure si è acceso in fretta e furia il termovalorizzatore di Acella e qualche coballa è stata bruciata lì dentro. Ma se questa è la situazione, però la verifica che verrà compiuta dalle autorità europee non potrà che portare ad una sanzione per l'Italia. Ma come dire, era stato detto milioni di volte che comunque i cittadini avrebbero pagato, non solo perché i rifiuti erano rimasti per strada a lungo, non solo perché l'immagine della Campania era stata messa in gioco, non solo pagano proprio tasse perché c'è stata un'emergenza rifiuti, e ora pagheranno anche perché appunto ci saranno le sanzioni da parte della Comunità Europea. Ed ora parliamo di inchieste. L'amministratore delegato di Telecom Italia si dice profondamente turbato dalla vicenda Sparkle, ma assicura che il gruppo è solido e serio. In una lettera inviata a manager e dipendenti dell'azienda, Franco Bernabè commenta la vicenda che ha visto la controllata coinvolta nell'inchiesta sul maxi riciclaggio. Dobbiamo trovare le energie, scrive, per uscirne rafforzati dalla consapevolezza che qualsiasi cosa negativa sia eventualmente avvenuta in passato, comunque non deve ripetersi più in futuro. E l'altra novità riguarda l'altra inchiesta e per la precisione la persona di Angelo Balducci, ex numero uno del Consiglio dei Lavori Pubblici in carcere nell'ambito dell'inchiesta sui grandi eventi. Non sarà più chiamato a svolgere il ruolo di gentiluomo di Sua Santità, questo lo hanno comunicato fonti vaticane poco fa. Corruzione dunque sempre in primo piano, corruzione della quale è tornato a parlare oggi il presidente del Senato Schifani. L'Italia ha bisogno di maggiori strumenti di controllo, ha detto intervenendo a Palazzo Giustiniani alla presentazione della relazione annuale della Corte dei Conti europea. E adesso ne parliamo di lavoro perché il dibattito è aperto dopo l'ok in Senato al disegno di legge in materia. Una tutela in più o un attacco ai lavoratori? L'approvazione in via definitiva da parte del Senato del disegno di legge collegato lavoro, che introduce anche l'arbitrato nelle controversie fra datori e lavoratori, ha riacceso la polemica sull'articolo 18, la norma dello statuto che prevede il reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa nelle aziende con più di 15 dipendenti. Una norma che continua l'opera di Marco Biagi, secondo il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, contraria opposizioni e CGIL, che trovano questa norma pericolosa e sovversiva. Carlo Della Ringa, professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano, vede invece dei chiaroscuri. Sul ricorso all'arbitrato, questa è una politica che senz'altro va perseguita. La discussione riguarda proprio le modalità. C'è un punto particolare che le parti sociali dovranno attentamente valutare. Il caso che un lavoratore non si vincoli a questa possibilità in sede di firma del contratto individuale. La legge introduce anche l'apprendistato a 15 anni e rimanda la riforma degli ammortizzatori sociali, che era prevista entro quest'anno, al 2012. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E da Roma oggi si conclude il congresso della UIL. Allora ci colleghiamo in diretta con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Si è tornati sul tema arbitrato questa mattina o no? Sì, buongiorno. Naturalmente il tema del lavoro, ma soprattutto di questo nuovo provvedimento che allarga il ricorso all'arbitrato nel caso di controversie, è un tema dibattuto anche qui al congresso della UIL, dove questa mattina sono ripresi i lavori dei delegati, ma il momento culmine sarà alle 15 con la relazione del segretario generale Angeletti, segretario generale che ieri è comunque intervenuto in maniera abbastanza decisa, avvertendo che il sindacato non starà con le mani in mano nel caso di danni seri. Questo tema, così come i temi del mercato del lavoro, ha detto Angeletti, devono essere oggetto prima di confronto con le parti sociali, che sanno trovare, aggiunto, soluzioni più efficaci di quanto sappia fare il Parlamento. Solo così si possono evitare i danni. Naturalmente Angeletti tornerà sul tema questo pomeriggio in maniera più approfondita. Ad ascoltare la sua relazione ci saranno anche leader di CISL e CGIL, che come sappiamo hanno posizioni diverse tra loro, e dopo il suo intervento ci sarà l'elezione degli organi statutari con la convocazione immediata del Comitato Centrale per l'elezione del segretario, ma è scontata la rielezione di Angeletti, che sarà dunque al suo terzo mandato. Un congresso che celebra, lo ricordiamo, anche il 60° anniversario della fondazione della UIL. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra. Altro fronte caldo, lo stop ai talk show. Stasera niente, anno zero. La RAI rischia di perdere ascolti ed introiti. Giudicare dai primi dati è ancora presto. Lo stop ai talk show potrebbe essere drammatico per l'Auditel Rai. Le sostituzioni sono delicate, difficile intercettare lo stesso pubblico, difficile accontentare gli inserzionisti pubblicitari. Secondo Roberto Rao, capogruppo dell'UDC in Vigilanza Rai, la perdita in base agli introiti pubblicitari potrebbe arrivare a 4 milioni di euro. Il telefilm che sostituiva Porta a Porta non ha raggiunto il 10% di share. Rai 3 senza Ballarò e con La Grande Storia è precipitata all'8%, ma certo all'azienda non manca un pregiato magazzino e squadre da mettere in campo. Da oggi Maurizio Costanzo dovrebbe allestire una sorta di bontà sua notturno, ma senza politica, con un Costanzo showbiz che potrebbe andare anche molto bene. Ho trovato! Crudelia Demo. Sul fronte Rai 2, Anno Zero verrà rimpiazzato questa sera addirittura con La Carica dei 101. Ma i media planner non ci stanno lo stesso. Gli spazi pubblicitari sono stati comprati per conto delle aziende da almeno un mese e sono pronti a chiedere a Sipra, la concessionaria Rai, sostituzioni o integrazioni, perché si trovano con spot piazzati dove non avrebbero dovuto esserlo, se non per ascolti, per caratteristiche del pubblico. Insomma, un bel pasticcio. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Presentazione oggi a Roma della 15ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. In diretta Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno, qui alla sede RAI di Viale Mazzini è Don Luigi Ciotti a presentare la 15ª edizione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Un appuntamento annuale che quest'anno Libera ha fissato a Milano per sabato 20 marzo. Non è casuale la scelta della Lombardia, spiega Don Ciotti. A Milano 31 anni fa fu ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Nel luglio del 93 ci fu la strage di Via Palestro. Nel 2015 nel capoluogo lombardo si terrà l'Expo, evento su cui Libera considera importante vigilare per evitare l'infiltrazione mafiosa, e questo perché la criminalità organizzata non è un male che oggi affligge solo il sud del paese, perché secondo l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare antimafia da tempo le cosche sono presenti al nord e in Lombardia, che è la prima regione italiana per traffico di droga e per riciclaggio. Sempre a Milano, giorno prima della manifestazione, ossia il 19 marzo, si incontreranno oltre 500 familiari delle vittime in ricordo dei parenti uccisi dalla criminalità organizzata. La dimensione finanziaria delle mafie sarà il tema della giornata della memoria del 20 marzo nel capoluogo lombardo, che inizierà con una marcia per le vie della città, proseguirà con seminari nel pomeriggio e si concluderà con un concerto la sera. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara. Per i voli low cost di Air One che partiranno da Malpensa dal prossimo 28 marzo sono arrivate all'Alitalia 120.000-140.000 richieste di prenotazioni. Lo ha annunciato questa mattina l'amministratore della compagnia Rocco Sabelli, ospite a Radio 24 di Oscar Giannino. Parte intanto oggi la sperimentazione del primo body scanner al Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino, con il quale ci colleghiamo in diretta con la nostra Chiara Di Michele. Chiara? Sì, buongiorno. I primi a sottoporsi al body scanner questa mattina qui all'aeroporto di Fiumicino sono stati i ministri dei trasporti e della salute Matteoli e Fazio. Entrambi hanno garantito che il macchinario non è nocivo per la salute e non viola la privacy. L'immagine riprodotta sul monitor è quella di una sagoma stilizzata del corpo umano come se fosse un manichino. Non si vedono quindi né il volto né le forme del corpo, solo qualsiasi oggetto si abbia addosso. La fase sperimentale dei body scanner è partita appunto dal Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino, dedicato ai passeggeri diretti negli Stati Uniti. Il periodo di sperimentazione, che durerà circa 5 settimane, ha l'obiettivo di testare il livello di prestazione delle apparecchiature in dotazione all'ENAC e di verificare la reale capacità dei body scanner di rilevare oggetti e sostanze che i metal detector non possono individuare. Con questa procedura l'ENAC si aspetta di ridurre i tempi dei controlli, un altro aspetto che si riserverà di verificare in questa fase, che va detta è volontaria. Quindi da domani chi si imbarcherà per gli Stati Uniti potrà decidere di sottoporsi al controllo del body scanner, evitando la doppia perquisizione. Sono esentati quei passeggeri con patologie o situazioni sanitarie documentate che risultano incompatibili con la sottoposizione all'emissione delle onde in argomento. Dall'aeroporto di Fiumicino è tutto, linea allo studio. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione, da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del caos delle liste per le regionali, PDL in piazza alle 17 a Roma, in forse la presenza di Berlusconi. Bossi intanto sollecita una soluzione politica e Napolitano da Bruxelles si dice preoccupato. Abbiamo parlato anche dei rifiuti in Campania, perché per quell'emergenza l'Unione Europea ha condannato l'Italia. Rischi per le persone, queste le motivazioni. E poi ci siamo collegati con Fiumicino per parlare della prima sperimentazione dei body scanner. Adesso all'ampia pagina estera, tra pochissimo andremo in Iraq perché c'è una situazione molto delicata. Oggi la prima giornata di voto è stata ancora macchiata di sangue. Subito però andiamo ad Atene, dove proseguono le proteste contro le misure anticrisi varate dal governo. I due principali sindacati hanno annunciato per domani una sospensione del lavoro di 3 ore in tutto il paese. Oggi occupazione del Ministero delle Finanze. Circa 300 membri del sindacato comunista PAME hanno occupato il Ministero delle Finanze greco in piazza Sintagma per protestare contro le misure di austerità varate dall'esecutivo ellenico. La manovra sui conti pubblici di 4,8 miliardi di euro prevede tagli agli stipendi dei dipendenti pubblici e aumenti dell'IVA. Nel frattempo anche il sindacato dei funzionari pubblici, ADEDI, ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per il prossimo 16 marzo. Si tratta del terzo sciopero dall'inizio dell'anno. Ma mentre i sindacati protestano ad Atene, la borsa festeggia e oggi è in rialzo dopo l'annuncio appunto che la Grecia è sul mercato con un'emissione di bond decennali da 5 miliardi di euro. approfittando delle reazioni positive internazionali al suo nuovo pacchetto di austerità. Secondo indiscrezioni, l'adesione è stata superiore ai 7 miliardi, con un rendimento al 6,50. Buone notizie dunque per il tesoro greco, mentre il premier Papandreou vola a Berlino per incontrare il cancelliere Merkel e definire il piano di solidarietà e garanzie della UE allo Stato greco. Vittorio Darold, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in India, dove una fuga di massa causata dalla caduta di un cancello durante un pranzo di una comunità nell'Uttar Pradesh ha causato la morte di 65 persone. Il grave incidente è avvenuto vicino ad un tempio dove era convenuta una grande folla di seguaci di questa comunità in occasione di una visita del loro leader spirituale. Intanto in Cile la terra continua a tremare, una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la zona centrale del paese alle 22.59 ora locale, le 2.59 in Italia. I soldati cileni stanno distribuendo cibo e aiuti di prima necessità nell'area di Concepción, che è la più colpita dalla sisma di sabato scorso. In Olanda, vittoria del locale partito xenofobo e anti-Islam, che diventa il terzo partito nel paese su base nazionale. Un segnale preoccupante, una tendenza fuori dalla storia e fuori dalla realtà, ha detto oggi il presidente della Repubblica Napolitano, che si trova a Bruxelles. E adesso, come detto, andiamo in Iraq, dove una parte dell'elettorato è chiamato a votare oggi per le elezioni politiche che si terranno il prossimo 7 marzo. Il clima però è pesantissimo, come ci racconta in diretta da Baghdad l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Ci troviamo in questo momento nel cuore di Baghdad, al di fuori della zona verde. Anticipando rispetto al voto di domenica, oggi hanno iniziato a votare gli uomini della polizia, i soldati dell'esercito, il personale degli ospedali e quello delle carceri, oltre ad alcune persone dei servizi essenziali. Non è stato un voto tranquillo. Oggi Baghdad è ritornata ad essere una città molto tesa. Almeno 3 gli attentati che hanno colpito la capitale. Il primo stamattina da Hariya, un quartiere sciita nella Baghdad nord-occidentale. 5 i morti. Il secondo a Babilu al-Mudayyan, vicino a dove ci trovavamo noi, che avevamo avvertito la detonazione. L'esplosione è venuta vicino a un seggio elettorale. In questo quartiere si trova la 11ª divisione artiglieria. I soldati stanno andando a votare. 4 di loro sarebbero morti. Non si sa se sia un kamikaze o un'autobomba. E pochi minuti fa abbiamo avuto un altro boato vicino al quartiere di Hai al-Bena. Anche in questo caso sono stati presi di mira i soldati che stanno per andare a votare, 3 le vittime. Il clima che si respira a Baghdad a 3 giorni dalle elezioni di domenica è dunque molto teso, la città è letteralmente blindata. I soldati sono molto attrezzati, dispongono di attrezzature e equipaggiamenti per intercettare esplosivi dati dagli Stati Uniti, dall'esercito americano, ma evidentemente i miliziani sunniti e i gruppi di Al-Qaeda riescono ancora a perforare le maglie della sicurezza irachena. Baghdad quindi aspetta con molta tensione il voto di domenica. Da Baghdad è tutto. Grazie Roberto, buongiorno in diretta da Baghdad. Noi torniamo in Italia il 21 febbraio 2001, il massacro di Novi Ligure. Omar ora è un uomo libero. Vi scandalizza? Era la domanda del nostro sondaggio di oggi. 97 coltellate cancellate in 9 anni di carcere. Da ieri Omar Favaro, che con la fidanzatina Erika Denardo fu l'autore del massacro di Novi Ligure, la madre e il fratello di Erika uccisi appunto con 97 coltellate, è un uomo libero. Per il 77% dei nostri ascoltatori davvero troppo presto. La pena certo deve tendere a rieducare, ma il senso diffuso è di una giustizia troppo blanda per un delitto così atroce. La pensa così anche Elisa, intervenuta stamattina in trasmissione, ex compagna di classe di Erika. Sono totalmente scioccata da questa pena ridotta con l'indulto alla metà. Cioè, se io dovessi vedermi in giro tra 2 anni Erika a Novi Ligure, non so come potrei reagire. Sono andata al battesimo di Gianluca, conoscevo perfettamente Susi. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Barcellona adesso per una notizia storica. Sarà una santa messa di Papa Benedetto XVI a concludere simbolicamente i lavori della Sagrada Famiglia. Ad oltre un secolo dall'inizio della sua costruzione, la celebre cattedrale spagnola, disegnata da Antonio Gaudì, verrà infatti ultimata al 60% per essere consacrata il 7 novembre prossimo. Per il Tempio sarà un momento storico, così come quando iniziarono i lavori nel 1883 o quando nel 1926 morì l'architetto di Dio, come gli abitanti di Barcellona soprannominarono Gaudì. La costruzione della Sagrada Famiglia è stata resa possibile sin dall'inizio dalle offerte dei fedeli e tutt'oggi, per portare avanti i lavori di edificazione dell'immensa struttura, bisogna pagare un ingresso di 11 euro. Questo spiega in parte la lentezza dei lavori. Dopo la morte di Gaudì, per il quale la Sagrada Famiglia era un'opera nelle mani di Dio e nella volontà del popolo, vari architetti hanno seguito l'idea originale. In realtà, i lavori verranno ultimati davvero soltanto tra 15 o 20 anni, però già a partire da maggio la chiesa sarà completamente coperta. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. La pagina sportiva adesso, che si apre con il calcio, tempo di bilanci per la nazionale dopo lo 0-0 di ieri sera nell'amichevole con il Camerun. Poche emozioni, nessun gol, difesa a 3, promossa. L'Italia di Lippi torna da Monte Carlo con più dubbi che certezze sulla strada verso Sudafrica 2010. Attacco asfittico con Borriello prima e Pazzini poi, poco assistiti da Di Natale e dal pur generoso Cossu. Sulle fasce meglio Maggio di Criscito, a centrocampo bene Marchisio. Il migliore comunque è l'esordiente del Bari, Leonardo Bonucci, che fa bella figura nel pacchetto arretrato a fianco di Cannavaro e Chiellini. Ho cercato di fare, come aveva detto il mister, quello che sapevo e di impostare l'azione come avevamo provato in questi due giorni. Penso di aver superato la prova, ma questo voglio che sia soltanto un punto di partenza. Ora però Lippi deve sciogliere in modo netto i tanti nodi ancora irrisolti. Le ombre dell'Amletico Nest e del precario Totti rischiano di togliere sicurezza a un gruppo ancora da plasmare. E speriamo poi che il CT abbia almeno dato uno sguardo al Balotelli ammirato nell'Under 21. Difficile accettare l'idea che il talento di Super Mario non trovi spazio sull'aereo che porta a Johannesburg. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Al via tra una settimana le Paralimpiadi invernali di Vancouver 2010, agli atleti azzurri si chiede di riscattare le delusioni dei colleghi olimpici. La previsione di Fabrizio Macchi, il campione del ciclismo paralimpico azzurro, al microfono di Dario Ricci. A livello di medaglie complessive probabilmente non sarà molto diversa dai nostri colleghi olimpici, probabilmente un'oro in più che può arrivare dal nostro portabandiera Gerry Del Maestro, che comunque si difende molto bene, è andato nelle ultime prove di Coppa del Mondo sempre vinto ultimamente, e a Torino 2006 aveva portato a casa due splendide medaglie, quindi lui potrebbe essere l'ago della bilancia di questa nostra Paralimpiade. È tutto per questa edizione, grazie in regia Fabio Cantadori. Adesso c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.